21° canto dell'Inferno dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, 21° canto. Così di ponte in ponte, altro parlando che la mia comedia cantar non cura, venimmo. E tenavamo il colmo quando restammo per veder l'altra fessura di Malebolge e gli altri pianti vani. E vidila mirabilmente oscura, qual nell'arzanà di Viniziani bolle l'inverno la tenace pece a rimpalmare i legni lor non sani, che navicar non ponno in quella vece chi fa suo legno novo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece, chi ribatte da proda e chi da poppa, altri faremi e altri volge sarte, che terzeruolo e artimon rintoppa. Tal, non per foco, ma per divinarte, bollia là giuso una pegola spessa che inviscava la ripa d'ogne parte. I vedea lei, ma non vedea in essa mai che le bolle che il bollor levava e gonfiar tutta e riseder compressa. Mentr'io là giù fisamente mirava, lo duca mio dicendo «Guarda, guarda!» mi trasse a sé del loco dov'io stava. Allor mi volsi, come l'uom cui tarda di veder quel che li convien fuggire e cui paura subita sgagliarda, che per veder non indugia il partire. E vidi dietro a noi un diavol nero correndo su per lo scoglio venire. Ai, quant'egli era nell'aspetto fero, e quanto mi parea nell'atto acerbo, con l'ali aperte e sovra i piè leggero. L'omero suo, che era aguto e superbo, carcava un peccator con ambo l'anche, e quei tenea dei piè ghermito il nerbo. Del nostro ponte disse, «O malebranche! Ecco un degli anzian di santa zita. Mettete il sotto, chi torno per anche a quella terra che n'è ben fornita. Ogni uom v'è barattier, fuor che bonturo. Del no, per li denar vi si fa ita». Laggiù il buttò, e per lo scoglio duro si volse. E mai non fu mastino sciolto con tanta fretta a seguitar lo furo. Quel s'attuffò e tornò su convolto, ma i demon che quel ponte avean coperchio gridar «Qui non ha loco il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel cerchio, però se tu non vuo di nostri graffi non far sopra la pegola soverchio». Poi l'addentar con più di 100 raffi, disser, «Coverto, convien che qui balli, sì che se puoi nascosamente accaffi». Non altrimenti i cuoci a lor vassalli fanno attuffare in mezzo la caldaia la carne con gli uncin, perché non galli. Lo buon maestro, «A ciò che non si paia che tu ci sia», mi disse, «giù t'acquatta dopo uno scheggio, ch'alcun schermo taia. E per nulla offension che mi sia fatta, non temer tu, ch'i ho le cose conte, perché altra volta fui a tal baratta». Poscia passò di là dal col del ponte, e come il giunse in su la ripa sesta, mestier li fu d'aver sicura fronte. Con quel furore e con quella tempesta ch'escono i cani addosso al poverello, che di subito chiede ove s'arresta, usciron quei di sotto al ponticello e volser contra lui tutti i runcigli. Ma el gridò «Nessun di voi sia fello! Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, traggasi avante l'un di voi che m'oda e poi d'arruncigliarmi si consigli!» Tutti gridaron «Bada malacoda!» Percun si mosse e gli altri stetter fermi e venne a lui dicendo «Che li approda? Credi tu, malacoda, qui vedermi esser venuto?» disse il mio maestro, «sicuro già da tutti i vostri schermi, senza voler divino e fato destro? Lascian andar, che nel cielo è voluto chi mostri altrui questo cammin silvestro!» Allor li fu l'orgoglio sì caduto che si lasciò cascar l'uncino ai piedi e disse agli altri «Omai non sia feruto!» E il duca mio a me «O tu che siedi tra gli scheggion del ponte quatto quatto, sicuramente omai a me ti riedi!» Perch'io mi mossi e a lui venni ratto e i diavoli si fecer tutti avanti, sì ch'io temetti che tenesser patto. Così vid'io già temer li fanti ch'uscivan patteggiati di caprona, veggendo sé tra nemici cotanti. I m'accostai con tutta la persona lungo il mio duca e non torceva gli occhi dalla sembianza lor ch'era non buona. Ei chinavan li raffi e «Vuo che il tocchi!» dicevan l'un con l'altro «in sul groppone?» E rispondien «Sì, fa che gliel'accocchi!» Ma quel demonio che tenea sermone col duca mio si volse tutto presto e disse «Posa, posa, scarmiglione!» Poi disse a noi, «Più oltre andar per questo iscoglio non si può, però che giace tutto spezzato al fondo l'arco sesto, e se l'andare avante pur vi piace, andatevene su per questa grotta, presso è un altro scoglio che via face. Ier, più oltre 5 ore che quest'otta, 1266 anni compie, che qui la via fu rotta. Io mando verso là di questi miei a riguardar s'alcun se ne sciorina. Gite con lor, che non saranno rei. Trati avante, Alichino e Calcabrina», cominciò egli a dire. «E tu, Cagnazzo, e Barbariccia guidi la decina. Libicocco vegn oltre, e Draghignazzo, Ciribiatto Sannuto, e Graffiacane, e Farfarello, e Rubicante pazzo. Cercate intorno le boglienti pane. Costor sian salvin fino all'altro scheggio che tutto intero va sovra le tane. O me, maestro, che è quel ch'i veggio?» diss'io. «Deh, senza scorta andianci soli. Se tu sa ir, chi per me non lacheggio? Se tu sei sì accorto come suoli, non vedi tu che digrignan li denti e con le ciglia ne minaccian duoli?» Ed egli a me «Non vo che tu paventi, lasciali digrignar pur a lor senno, che fanno ciò per li lessi dolenti. Per l'argine sinistro volta dienno, ma prima avea ciascun la lingua stretta coi denti verso lor duca per cenno, ed elli avea del cul fatto trombetta.» Fine del 21° canto dell'Inferno.